Il punto di Stefano Folli. Se avesse ragione il Financial Times, che parla di un letargo del governo Letta, ci sarebbe da preoccuparsi. Bisogna pensare invece che si tratta di un giudizio impietoso e che il nostro Premier segue un suo percorso, magari poco appariscente, ma concreto e risolutivo. Un percorso in cui sono comprese sia la sintonia manifestata con le proposte della CISL di Bonanni, sia la cautela con cui si studiano le soluzioni per IVA e IMU. Tutto bene, purché non si finisca nel solito modo di governare all'insegna del basso profilo, senza mai il coraggio di fare scelte innovative, magari anche clamorose. Esiste una grande coalizione per ora e le grandi coalizioni stanno insieme nei momenti eccezionali proprio per supportare decisioni fuori dell'ordinario. È quello che tutti si aspettano. Del resto i segnali indicano che la luna di miele sta finendo. I fischi al ministro Zanonato dicono molto al riguardo.